2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, benvenuti o bentornati. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica all'ora di pranzo dopo le 13.10. Nei prossimi giorni sono in programma due importanti appuntamenti legati allo spazio. Allora, il primo è sicuramente storico, è il ritorno degli Stati Uniti ai voli umani verso la stazione spaziale. Perché alcuni di voi lo ricorderanno, molti di voi lo ricorderanno, da quando lo Space Shuttle è stato dismesso nel 2011, luglio 2011, gli americani, che hanno fatto qualche calcolo sbagliato perché avevano preparato un nuovo razzo, poi hanno dismesso quel progetto, insomma hanno fatto un po' di casino e quindi non hanno avuto per tutti questi anni una soluzione per andare nello spazio, e tra l'altro anche gli europei e altri paesi sono stati costretti ad utilizzare le Soyuz russe per raggiungere la stazione spaziale internazionale. Anche perché oltre ai russi ci sono solo i cinesi che hanno capacità di portare uomini nello spazio, ma i cinesi non collaborano con nessuno. Direi anche gli altri non collaborano con i cinesi. Allora, dal 27 maggio, quindi dalla prossima settimana, gli Stati Uniti, se tutto andrà per il verso giusto, ci sono praticamente tutti i giorni riunioni allo Space Center, al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, per vedere che tutto vada per il verso giusto. Dal 27 maggio gli Stati Uniti riconquisteranno l'autonomia di trasporto con una capsula sviluppata dalla SpaceX di Elon Musk. È una capsula Dragon, già viene utilizzata per il trasporto di carichi verso la stazione spaziale internazionale, ma questa è fatta apposta per trasportare gli astronauti. Saranno solo due gli astronauti. Comunque, appuntamento alle 22.33 minuti di giovedì prossimo, questa è l'ora italiana, ovviamente il primo pomeriggio negli Stati Uniti. L'altra notizia, meno importante ma simbolica, riguarda Virgin Orbit, che è la meno nota azienda della Virgin impegnata nello sviluppo di sistemi di messa in orbita di satelliti. È l'azienda spaziale più nota del gruppo della Virgin, è la Virgin Galactic. Avrete ascoltato, diciamo, quando ci sono degli aggiornamenti importanti ci colleghiamo con Nicola Pecile, che è un pilota di Virgin Galactic che usiamo come informatore per raccontarci quello che succede. Vedremo se il coronavirus ha bloccato gli sviluppi. Comunque, per quanto riguarda Virgin Orbit, nella giornata di domenica farà il primo lancio dimostrativo con un sistema particolare. Allora, diciamo che in tutti i sistemi prevedono un razzo che parte in verticale da terra, arriva in orbita e rilascia uno o più satelliti. Invece questo sistema prevede che ci sia un Boeing 747 trasformato in modo particolare, si chiama tra l'altro Cosmic Girl, questo Boeing 747, un jumbo che ha sotto la pancia un razzo, lo porta in quota, all'interno del razzo c'è un satellite da mettere in orbita, comunque arriva in quota questo aeroplano, ad un certo punto molla il razzo, che si accende, il cui motore si accende mentre è già ad una certa altezza, e poi da lì parte per arrivare in orbita. È una soluzione particolare e il primo lancio dimostrativo verrà fatto appunto nella giornata di domenica. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da EasyJet, che ha annunciato di aver subito un attacco informatico che la stessa compagnia ha definito sofisticato e che ha coinvolto i dati come indirizzi email e dettagli di viaggio di 9 milioni di passeggeri. In 2,2 milioni di casi sono stati sottratti anche i dati delle carte di credito. La compagnia aerea britannica ha dichiarato di essersi accorta della violazione a gennaio, ma ha atteso fino al 19 maggio per avvisare gli utenti. Tutti i clienti coinvolti nella violazione sono o saranno avvisati nei prossimi giorni. Io non sono stato avvisato, comunque ho cambiato la mia password sul profilo di EasyJet. Facebook ha annunciato un investimento che dovrebbe, secondo nostre fonti, valere circa 400 milioni di dollari, assieme ad alcune importanti società di telecomunicazione, per costruire entro il 2024 il cavo sottomarino To Africa, uno dei più lunghi e potenti al mondo. Pensate che è lungo, sarà lungo 37.000 chilometri, circumnavigherà il continente africano toccando 16 paesi dell'Africa. Il cavo partirà dalla Gran Bretagna, arriverà in Spagna, toccherà anche l'Italia. In questo progetto hanno investito anche China Mobile, che dimostra che insomma i cinesi continuano giustamente ad investire in Africa. Poi ci sono anche MTN Global Connect, MTN è una società sudafricana, Orange francese, STC, poi Telecom Egypt, Vodafone e The West Indian Ocean Cable Company. Allora, se le grandi dorsali internet sono uno degli asset strategici del mondo di oggi e di domani, beh, è abbastanza significativo che Facebook sia capofila di questo investimento. Questi soldi investiti, che tra l'altro non sono neanche tantissimi, 400 milioni per un'infrastruttura del genere, visto il valore di questa infrastruttura, insomma non sono tantissimi, ce la dice anche lunga sulla potenzialità dell'Africa. Secondo la società, giusto per avere un'idea, secondo la società Telegeography, la metà della capacità totale dei cavi sottomarini del mondo è di proprietà o è noleggiata dalle quattro più grosse aziende internet, vale a dire Google, Microsoft, Facebook e Amazon. E ovviamente sono tutte società che trasportano un sacco di dati in giro per il mondo. Parliamo della Svizzera, dove nascerà una società di telecomunicazioni simile alla nostra Open Fiber. Così simile che si chiamerà Swiss Open Fiber, con l'obiettivo di cablare in fibra ottica tutte le case e gli uffici che ancora non sono raggiunti dalla banda ultralarga, vale a dire 2/3 degli edifici svizzeri. Credevate che in Svizzera ci fosse la fibra ottica ovunque? Allora, la società nasce dalla fusione dell'operatore Sunrise e da Salt, che è di proprietà di Javier Niel, che è l'imprenditore francese fondatore di Iliad, che in Francia è conosciuta con il nome di Free ed è il secondo operatore nazionale di internet su rete fissa ed è il terzo su rete mobile. L'Italia invece ha mantenuto il nome Iliad, famosa nota. E comunque questa è una notizia interessante, perché uno come Neil, che è sicuramente molto abile a scegliere dei business interessanti, scelga il modello neutrale di Open Fiber, che vende solo all'ingrosso. Giusto per confermare che Neil è tutt'altro che uno sprovveduto, pensate che detiene, assieme ad altri, i diritti della canzone, tra le altre cose, perché insomma c'ha un sacco di business di successo, ma i diritti della canzone My Way di Frank Sinatra. Questo l'ho scoperto facendo delle ricerche questa settimana. Parliamo di Masterclass, una startup americana del settore ed tech, cioè la tecnologia al servizio dell'educazione. Questa masterclass specializzata in corsi online tenuti da grandi star del cinema, dello sport, della cucina, della politica e tante altre personalità, ha dei video bellissimi, ha raccolto 100 milioni di dollari. Masterclass guadagna vendendo un abbonamento per vedere tutte le lezioni video che ha a catalogo, è una specie di Netflix con una proposta fra l'educazione e l'intrattenimento, quindi che ne so, 10 puntate con un grande chef che ti spiega come si preparano alcuni dei piatti più interessanti del momento. Oppure, che ne so, una campionessa di tennis che ti svela tutti i trucchi del tennis, cose del genere. Tutto fatto con qualità altissima. Parliamo di Automattic con due T nella seconda parte, la società che realizza WordPress, la piattaforma su cui sono sviluppati, pensate, il 36% dei siti internet di tutto il mondo, ha investito assieme ad altri soggetti 4,6 milioni in una società che si chiama New Vector, che ha creato un sistema di comunicazione decentralizzato chiamato Matrix. Matrix.org è il sito, andatelo a vedere perché è molto interessante. Su questo sistema sono sviluppati dei servizi di instant messaging, quindi, che ne so, WhatsApp, però molto più sofisticati, a anche perché appunto sono su sistema decentralizzato e li usano questi sistemi anche i governi francese e tedesco. Segno che i francesi e i tedeschi sono sempre attenti quando si parla di sistemi sicuri. Non so se gli italiani lo usano, però non mi risulta, ma se a qualcuno risultasse, si faccia vivo. Parliamo di due investimenti italiani importanti. P101 ha investito 3,5 milioni di euro in UpQuality, una startup italiana che gestisce una piattaforma italiana per il crowd testing, cioè usa le persone diffuse, sono 14.000 persone che testano applicazioni, siti web, altri servizi per migliorarne la qualità. United Ventures ha guidato un investimento da 2,3 milioni di euro in Datrix, ma comunque è italiana, Datrix, che è specializzata nell'analisi dei dati a supporto di attività di vendite e marketing e nei settori dell'editoria e della finanza. Un'ultima notizia su cui non c'è tantissimo da dire: Facebook ha lanciato Shops, ovvero un nuovo servizio che dà la possibilità di realizzare una vetrina per il proprio negozio. Quindi pensate, tanti negozi che ci sono, che hanno la propria pagina in Facebook, possono utilizzare Facebook per realizzare una piccola vetrina. Non si va molto più in là che la vetrina, perché poi la fase di e-commerce vero e proprio, cioè tutto il magazzino, il pagamento, la consegna, la logistica, te la devi fare da solo. Quindi diciamo, ti vedono su Facebook, possono scegliere i prodotti e poi bisogna organizzarsi per il resto se si vuole fare e-commerce. Come ha detto il mio amico Massimo Cavazzini, è un conto è farsi solo vedere, l'e-commerce e tutta la parte più complicata dell'e-commerce è tutt'altro. Apple e Google hanno reso disponibile questa settimana gli aggiornamenti necessari per fare funzionare le applicazioni di contact tracing. Sapete che in Italia l'app si chiama Immuni, sarà disponibile a fine mese, massimo inizio di giugno. E questa è una notizia che è stata confermata più volte da vari esponenti del governo. In questa settimana Apple in particolare ha rilasciato un aggiornamento del sistema operativo che fra le altre cose rende più semplice lo sblocco del telefono con la mascherina, che effettivamente è un problema. E mentre per Google va aggiornata l'applicazione Google Play Services, che normalmente si aggiorna in automatico. In ogni caso, quando si potrà scaricare l'app Immuni, se non fosse stato già fatto l'aggiornamento, verrà richiesto. Quindi insomma, poi noi consigliamo ovviamente, come sempre, anche per motivi di sicurezza, di fargli gli aggiornamenti. Ci sono persone che, io mi stupisco, non fanno mai l'aggiornamento. Ma come si fa? Ma Apple e Google hanno annunciato che sono vari gli stati americani e 22 paesi internazionali in tutto il mondo che stanno sviluppando applicazioni basate sulla loro tecnologia, che ricordiamo è attualmente la più efficace e la più attenta alla privacy. Poi certo, ci sono sistemi forse più efficaci ma che richiedono database centralizzati, quindi secondo alcuni esperti di privacy sarebbero troppo invasivi, e quindi qua ci sono stati dei dibattiti lunghissimi, ore e ore di dibattito su questo, non ci torniamo, anche noi comunque ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, abbiamo anche spiegato quali potrebbero essere i vantaggi dei sistemi che in qualche modo sono centralizzati, però insomma c'è un grosso dibattito. In ogni caso, la scelta che è stata fatta assieme ad altri 21 paesi e vari stati americani, che quindi saranno, non so, una 30-40 i paesi del mondo che usano la tecnologia di Apple e Google, è quella lì. Stiamo parlando tra l'altro di una cosa nuova che non è mai stata fatta, perché alcune delle soluzioni che vengono prese a modello in altri paesi, ad esempio la Corea, sono tutta un'altra cosa. Insomma, non possiamo certo riprodurre quello che è stato fatto e viene fatto in Corea, sia per motivi di privacy, perché là non esiste praticamente la privacy, quindi bisognerà vedere come funzioneranno, se ci sono troppi falsi positivi, troppi falsi negativi, se il sistema funziona ad hoc. Ricordiamo che l'app ti avvisa se una persona, anch'essa con l'app installata sul telefonino, dovesse poi in seguito risultare positiva al coronavirus. E va anche ricordato che l'app è una parte del sistema di contact tracing, non bisogna pensare che se funziona l'app funziona tutto. Eh no, c'è tutta una serie di altre cose che sono prevalentemente delegate al sistema sanitario, di cui non ci occupiamo 2024. Qui parliamo di tecnologia e abbiamo sempre parlato di questa applicazione, di come funziona e che cosa fa. Tra poco parleremo di un'operazione fatta tra l'Italia e la Silicon Valley e poi parleremo anche di sistemi per igienizzare usando l'ozono e i raggi ultravioletti. Adesso invece proseguiamo con le tecnologie che ci aiutano a mantenere il distanziamento fra le persone. La scorsa settimana abbiamo parlato di braccialetti usati, che si possono usare e basati su Ultra Wideband, che è una tecnologia che permette di essere piuttosto precisi, che avvisano le persone in caso si avvicinino oltre ad una certa distanza. In tutto il mondo ci sono progetti di vario genere usando le più diverse tecnologie. Pochi giorni fa, ad esempio, ho visto che Verge Sense, che è una startup americana che produce sensori di presenza in grado di contare le persone che ci sono in un ambiente e capire se ad esempio c'è troppa gente, ha preso 9 milioni di dollari, quindi c'è un grandissimo interesse verso queste soluzioni che penso troveranno molto successo, anche perché verranno considerate una sorta di DPI, cioè di sistema di protezione personale, e anche un modo per le aziende di mettersi in regola o addirittura essere più che in regola. Poi vedremo anche la regolamentazione in questo caso, in questo settore. Come dire, io ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità per fare in modo che i lavoratori stessero a distanza, perché gli ho dato addirittura un braccialetto che li avvisa se si avvicinano. Allora, molte di queste tecnologie servono per mappare gli ambienti, per fare analisi, servono per avvisare le persone se sono distratte, sono anche appunto un strumento per aumentare la sensibilità e la responsabilità di chi li utilizza. A Modena stanno utilizzando normalissime videocamere già installate, come mi ha spiegato la professoressa Rita Cucchiara dell'Università di Modena e Reggio Emilia e direttore del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale. Nel laboratorio dell'Università di Modena da ormai più di un decennio lavoriamo sul riconoscimento della persona, della posizione, delle interazioni tra persone, in progetti europei, in progetti nazionali, ora anche in diversi progetti con aziende italiane e straniere. Quindi avevamo già il software in parte fatto per utilizzare l'elaborazione di video in modo automatico e reti neurali, quindi parte di intelligenza artificiale, per riconoscere le distanze tra le persone, ma soprattutto, e questo nella terza dimensione in 3D, ma soprattutto per poter riconoscere quali sono le aree più a rischio per la mancanza di distanze corrette secondo quella che è la normativa nazionale, e quindi avere la possibilità di in tempo reale di dare degli allarmi o suggerimenti alle persone stesse di spostarsi. L'abbiamo ora, in questo momento è in fase di sperimentazione in due posti, perché da stamattina anche all'anagrafe, dove ho le immagini e ce n'era davvero bisogno, vista la concentrazione di persone, e, oltre che all'URP in centro, all'ufficio di relazione del pubblico, e speriamo veramente di poterlo adottare in tempi molto brevi anche in tutta la regione Emilia-Romagna e possibilmente in tutta Italia. Di che hardware, quindi di che videocamere avete bisogno per fare una cosa del genere? Quello che stiamo facendo non richiede dell'hardware speciale, ma richiede una qualsiasi telecamera RGB a colori che può essere già installata o che possiamo installare a poche centinaia di euro, e serve invece un'unità di elaborazione abbastanza sofisticata, cioè con delle GPU, del Graphic Processing Unit, che però di nuovo costano di nuovo poche centinaia di euro, quindi è abbastanza piccolo dal punto di vista della spesa. Invece il software, che sembra sempre di di poca importanza, però è un software prezioso per noi perché ci stiamo veramente lavorando da tanti anni, ed è un software che si basa da una parte sulla ricostruzione geometrica e dall'altra sul riconoscimento della posizione delle persone utilizzando delle reti neurali che noi abbiamo sviluppato a Modena ormai da un po' di tempo e che abbiamo addestrato con dati sia dei videogiochi e sia dati reali. Voi state utilizzando questa soluzione in alcuni uffici pubblici, come l'anagrafe, ad esempio, a Modena. Che tipo di informazioni fornisce un sistema di questo tipo? Allora, nella sua configurazione minima ci dà un allarme vocale e dice si prega di mantenere le distanze di sicurezza, o potrebbe essere in qualsiasi lingua, se la zona diventa più a rischio, il che significa se ci sono più persone che in un certo periodo di tempo, tutto configurabile, insomma qualche decina di secondi o di un minuto, viola le distanze di sicurezza, e quindi dal punto di e questa è l'informazione minima. In realtà abbiamo capito che è molto utile ridare anche un'informazione visuale, per cui dà un'informazione di quali sono le persone, di come se fosse un grafo interpersonale, come sono connessi le une alle altre, una mappa sul piano terra, così le persone possono anche capire che sono loro stesse causa di questa mancanza di sicurezza, e è un classico esempio di interazione uomo-intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale suggerisce e la persona si sposta. E quindi credo che sia stato apprezzato dalle persone che lo stanno utilizzando e anche dai lavoratori, perché dà un senso di sicurezza pur non creando altri tipi di problemi. Una delle categorie più a rischio in queste settimane sono stati e sono ancora i cassieri del supermercato. Già oggi anche in Italia ci sono dei sistemi di cassa self-service per bypassare la cassa tradizionale, ma il supermercato del futuro è quello dove entri, prendi i prodotti ed esci senza far nulla. Accade già nei negozi Amazon Go, che dall'inizio del 2018 sono operativi in alcune città degli Stati Uniti, e se ricordate in autunno avevamo anticipato l'apertura di un negozio simile a Milano con una tecnologia sviluppata da una startup fondata da Enrico Pandian che si chiama Checkout Technology. Enrico Pandian è tornato a trovarci, non nei nostri studi come la volta scorsa perché siamo obbligatoriamente a distanza. Bentornato a 2024, Enrico. Grazie. La notizia di questa settimana è che la californiana Standard Cognition ha comprato la tua azienda. Non avete svelato la cifra che è stata pagata, ma c'è una... tutte le volte che una startup finisce all'estero io sono un po' triste. Diciamo, la notizia in questo caso buona è che chi lavora, le persone che lavorano all'interno di Checkout Technology rimarranno a lavorare in Italia. Abbiamo avuto, ti dico, questa offerta di acquisizione da questa startup americana, che ti dico tra l'altro è nata appena un mese prima di noi, nel 2017, però ha raggiunto in breve tempo una valutazione di più di mezzo miliardo di dollari. Io ho avuto modo di conoscerli, fatalità, l'estate scorsa, quando sono stato a San Francisco 2 mesi con la mia famiglia a fare un po' di vacanza, e abbiamo venduto la società il 20 di marzo. La parte interessante di tutta questa vicenda in realtà è che loro volevano arrivare in Europa e hanno identificato, diciamo, l'Italia e la nostra società come base per la loro sede europea, e questo ovviamente per me è motivo di vanto e di orgoglio, soprattutto perché al di là delle 13 persone che abbiamo in questo momento in ufficio, stanno già assumendo altre persone e quindi vogliono crescere sull'Italia proprio come base per questa nuova tecnologia all'interno del mondo del retail. Senti, tu ci avevi detto che entro la fine dell'anno scorso ci sarebbe stato un primo negozio con questo tipo di tecnologie a Milano. A che punto siamo? Allora, abbiamo fatto la prima installazione, è un'installazione che diciamo, non ha un output verso il consumatore finale, ma sta funzionando, dà dei risultati, li dà ovviamente agli ingegneri in questo momento che stanno calibrando la tecnologia, ma è stata installata e ovviamente sai, è un primo passo verso poi un'installazione massiva invece all'interno dei punti vendita. Adesso per noi c'è una pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì sera, domenica a pranzo, con una breve replica. Trovate online una ricca e lunga versione podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale, per questo motivo lo chiamiamo Super Podcast. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi e scrivermi attraverso Facebook, LinkedIn, Twitter oppure 2024@radio24.it. Ci trovate oltre che online sul nostro sito, attraverso la nostra applicazione, attraverso le principali piattaforme audio come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutte le altre, e poi anche nella nuova Radio Player Italia. La trovate disponibile negli store sia su Android che iOS, Radio Player Italia. Ci sono tutte le radio nazionali e anche molte radio locali o pluriregionali. È con noi Enrico Pandian, fondatore di Checkout Technology, fondatore di tante altre startup. Effettivamente adesso ti rimangono le altre, questa l'hai venduta, però ricordaci come funziona questa tecnologia. Molto semplice, il consumatore entra all'interno del negozio, una serie di videocamere lo inquadrano e tramite gli algoritmi che abbiamo creato la tecnologia capisce quello che il consumatore ha preso e quindi diciamo gli crea in realtà un carrello virtuale in modo tale che non debba più passare dalla cassa, ma semplicemente possa uscire direttamente dal negozio, addebitando quello che ha preso direttamente sul suo metodo di pagamento. Abbiamo detto che adesso c'è un negozio già realizzato, ma che viene utilizzato solo dagli ingegneri che lo devono perfezionare. Un negozio vero e proprio quando potremo vederlo? Ma allora io penso che anche grazie alla situazione attuale lo vedremo molto prima rispetto ai 2 anni che ci eravamo prefissati. Quindi io penso che nel giro di un anno inizieremo anche a vedere in Europa un'applicazione di questo genere. Quindi questo vuol dire che anche gli operatori del settore sono pronti per avere queste tecnologie? Assolutamente. Il consumatore ha, diciamo, già adesso un utilizzo diverso del supermercato rispetto a quello che aveva semplicemente in febbraio. Quindi penso che tutto, diciamo, l'automatismo, il tirare via, diciamo, anche tutta la parte di contatto e di relazione con altre persone sia molto importante in questa fase, ma lo sarà soprattutto nel futuro, perché non dimentichiamoci che questa tecnologia nasce per togliere frizione al consumatore, per togliere le code alla cassa, per dargli un'esperienza completamente nuova e molto più digitale all'interno del punto vendita. Senti, ti faccio un'ultima domanda su questa operazione che tra gli startuppari, cioè in gergo di startup si dice exit. Una cosa del genere a parti invertite potrebbe accadere? Cioè in questo settore con queste tecnologie una startup italiana che ne compra una in Silicon Valley? Sicuramente sarà successa, diciamo che la vedo un po' difficile per un discorso proprio di capitale. Io ti dico, quando ho conosciuto Standard Cognition, ovviamente sai, essendo alla fine un nerd, la cosa che mi interessava era capire anche cosa avevano costruito a livello di algoritmi, eccetera. E ti dico la verità, ho capito che erano un po' più avanti di noi, ma non così tanto. Con l'unica differenza è che loro avevano raccolto più di 86 milioni di dollari, se non ricordo male, e noi invece poco meno di 2. Quindi è ovvio che il portafoglio è molto importante quando vai ad acquisire un'altra azienda. E quindi nel nostro caso sarebbe stato impossibile, insomma, acquisirli. Spero ovviamente che quello che è successo con Checkout Technologies in realtà sia di stimolo ai venture capital italiani per osare di più. Allora, visto che sei qui con noi, approfitto per farti una domanda su Box, un sistema per l'igienizzazione. Ci dici qualche cosa in più? Allora, Box è uno strumento che si tiene in casa e serve a sanificare diciamo, i prodotti che entrano in casa. Quindi immagina il classico pacco che ti arriva con il corriere. Io ad esempio a casa mia adesso quando arriva il pacco si prende l'alcol e si sanifica il pacco e il contenuto all'interno. Box in realtà è una scatola nel quale tu metti dentro l'oggetto che intendi sanificare, che può essere la scatola, come le scarpe, come che ne so, un giocattolo ad esempio, il ciuccio, eccetera eccetera. Parte questo generatore di ozono, sanifica tutto il contenuto all'incirca in 5 minuti e dopodiché puoi utilizzare molto tranquillamente l'oggetto all'interno della casa. Abbiamo pensato, ti dico, ovviamente per questa situazione, in realtà ti dico, l'idea mi è nata quando ho ricevuto la prima spesa a casa tramite il supermercato 24, che ho dovuto ovviamente veramente igienizzarla tutta con l'alcol, e ho cercato una soluzione per non doverlo più fare ed è venuta fuori l'idea di Box. Come è fatto? Ma è una piccola scatola di circa 60 litri, non è particolarmente ingombrante, è stato proprio pensato per essere messo, diciamo, nel corridoio di entrata che di solito hanno le case, e l'utilizzo, insomma, è molto semplice. Visto che l'ozono è un gas che se inalato non fa sicuramente bene, come avete risolto questo problema? Allora, praticamente nel momento in cui viene chiusa la scatola viene iniettato l'ozono, dopodiché il ciclo si ferma, l'ozono viene pian pianino fatto uscire tramite una valvola in modo tale che si diluisce con l'aria attorno e quindi in realtà non succede niente. Diciamo sempre ovviamente non mettete la testa dentro la scatola, ma spero insomma che il consumatore sia abbastanza sveglio da non farlo. Tu sei stato il fondatore anche di Supermercato 24, allora approfitto per chiederti qual è la situazione ad oggi. Anche voi siete stati travolti dalle richieste, soprattutto nel primissimo periodo di blocco totale. E oltre a chiederti della situazione attuale, vorrei anche chiederti se secondo te questo aiuterà la crescita dell'e-commerce anche nel vostro settore, o quando si tornerà alla normalità tornerà tutto come prima? No, ovviamente dall'inizio del lockdown i numeri sono schizzati, sono moltiplicati rispetto a quello che succedeva prima. Diciamo che questi 2 mesi ci hanno fatto saltare probabilmente 5 anni, cioè ci hanno fatto veramente andare nel futuro. Io sono convinto, ma lo vedo anche dai dati, che il consumatore nel momento in cui, diciamo, ha iniziato a usare un servizio nuovo e l'ha trovato utile, soprattutto in un momento molto difficile, perché questo è un elemento che bisogna sempre tenere in considerazione, non solo l'ha trovato utile in quel momento lì, ma lo userà nel futuro. Poi è ovvio che a tutti noi piace magari anche andare al supermercato a fare la spesa, ma in realtà la pigrizia soprattutto sul consumatore online è un elemento molto importante. E il fatto che un'applicazione come il Supermercato 24 ti permetta in realtà di risparmiare un po' più di tempo e di viverlo adesso con la tua famiglia e nel futuro anche con i tuoi amici, penso che non ci sarà assolutamente un ritorno ai numeri precedenti, ma anzi io penso che 3-4 volte rispetto a quello che si faceva in febbraio sarà d'ora in poi la normalità. E adesso la situazione com'è? In questo momento ci sono degli slot disponibili, quindi la situazione è stabile. È ovvio che, sai, nessuno pensava che da un giorno all'altro i volumi schizzassero in quel modo lì, quindi si sono dovuti strutturare, hanno fatto un ottimo lavoro i ragazzi. Quindi in questo momento qui c'è molta più capacità rispetto a prima e quindi c'è la possibilità di servire al cliente anche con una spesa direttamente con consegna in giornata. Visto che tu hai sempre delle idee, quali sono quelle, o almeno alcune di quelle su cui stai lavorando in questo periodo, quelle che ti frullano nella testa? Sì, ma in realtà nessuna, ti dico la verità, nel senso che è stata talmente dura questa exit proprio a livello mentale che ho deciso di concentrarmi su un unico progetto che è Fresco Frigo, anche se Box è un progetto di Fresco Frigo ovviamente, e quindi voglio rimanere concentrato su questa azienda almeno per i prossimi 12 mesi. Visto che hai accennato Fresco Frigo, ricordo quando ci siamo incontrati qualche mese fa che il frigorifero utilizzato da Fresco Frigo è made in Italy. Nel caso di Box? Sì, uguale, identico. L'abbiamo fatto produrre da piccole società tra la zona di Milano e di Verona. Ovviamente alcune componentistiche elettroniche arrivano dalla Cina perché è quello il paese nel quale si producono, però poi tutto il resto è fatto in Italia. Bene Enrico, grazie per essere stato con noi, a presto, in bocca al lupo per tutte le tue attività e le tue startup. Grazie a voi. Visto che la sanificazione con o igienizzazione, qua i due termini a volte sono utilizzati come sinonimi, con ozono o con raggi UV è uno degli argomenti del momento. Basta leggere, cosa che comunque io consiglio, una edizione di questi ultimi giorni del Sole 24 Ore e trovate molte pubblicità di prodotti per l'igienizzazione delle aziende, ad esempio, che hanno un problema. Va detto che secondo molti scienziati le evidenze di contagio tramite superfici sono molto basse. Ovviamente se ci sono oggetti che vengono toccati da molte persone in spazi di lavoro, ad esempio, dove ci sono molte persone, ovvio che questo diventa più importante, quindi ci vuole un'attenzione maggiore. Poi dipende sempre dal grado di paranoia che uno ha, e io vedo ad esempio gente che apre e chiude maniglie senza nessun problema, mentre invece magari prendendo un fazzolettino si può essere più attenti, oppure dopo magari ti vai a pulire le mani. Quindi anche in questo caso, insomma, ci sono varie sensibilità. Comunque sia, per rispondere anche a molte domande dei nostri ascoltatori, ci facciamo aiutare da Matteo Guidotti, che è un ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche del CNR a Milano. Guidotti, benvenuto a 2024. Grazie a voi. Le faccio una prima domanda sull'ozono e quindi sulla capacità e l'utilità di utilizzare l'ozono per l'igienizzazione dei prodotti. Delle superfici. Allora, l'ozono è appunto una molecola, si può dire che è un cugino o un fratello dell'ossigeno. L'ossigeno atmosferico che noi respiriamo tutti i giorni è composto da due atomi di ossigeno, l'ozono da tre atomi di ossigeno. E questo, diciamo, terzo incomodo è quello che lo rende poi particolarmente reattivo e particolarmente capace di interagire con il materiale organico. E per questo già ormai da decenni l'ozonizzazione dell'acqua potabile o l'uso dell'ozono per rimuovere muffe, funghi o comunque organismi biologici che possono essere dannosi, anche cattivi odori, è già una pratica ben assodata e disponibile comunque in commercio. Anche nell'ambito degli agenti patogeni virali, e quindi qui ovviamente in questo periodo la nostra attenzione massima è su questo nuovo coronavirus 2019, ha dimostrato comunque attività non specificatamente su questo ceppo, ma non perché, semplicemente perché non sono stati ancora condotti paradossalmente degli studi specifici. Però per analogia di quello che è già stato provato con altri coronavirus, quelli della SARS agli inizi del 2000 o quelli della MERS o comunque altri coronavirus che sono presenti un po' nel bacino d'utenza dei patogeni biologici, è stato visto come l'ozono sia molto efficace. Lei ricordava giustamente che questa è una tecnologia utilizzata ormai da decenni, forse una delle più note è l'igienizzazione tramite l'ozono che viene fatta in molte officine, carrozzerie o comunque chi lavora nell'ambito delle automobili e fa servizi per le automobili propone anche questo tipo di servizio. Che tipo di precauzioni dobbiamo, se ce ne sono, dobbiamo tenere quando c'è di mezzo l'ozono, sia lato consumatore, utente finale, chiamiamolo così, sia lato anche professionisti, aziende che dovrebbero essere già esperti, ma non è detto. Certo, ma ecco, proprio questa efficacia nei confronti dei sistemi biologici, e quindi quelli negativi, quelli patogeni che possono dare fastidio alla nostra vita quotidiana, questa stessa efficienza può essere anche un'efficienza nei confronti poi anche del nostro corpo. Teniamo presente che l'ozono, che comunque ricordiamolo, è un gas, è già sufficiente in piccole concentrazioni. Per piccole intendo grosso modo l'ordine di grandezza delle frazioni di milligrammo per metro cubo d'aria. Ricordiamo, un metro cubo d'aria sono 1.000 litri d'aria, per cui insomma un bel volume. Ecco, già frazioni di milligrammi di questo gas possono dare problemi non trascurabili a una persona. Tipicamente attaccano le mucose oculari, attaccano comunque tutto il sistema delle vie respiratorie e possono dare insorgenza a problemi di crisi asmatiche, edemi polmonari, possono dare origine anche a compromettere la capacità del sistema dei polmoni, comunque delle nostre vie aeree, di combattere eventuali altri patogeni. Quindi va dosato con molta attenzione. È un po' il proverbio che nell'ambito della chimica e della tossicologia è ben comune, che è la dose che fa il veleno. In piccole quantità può essere un nostro alleato, ma se usato male, in modo non adeguato, può veramente anche arrecare danno alle persone, sia ai professionisti, sia agli utenti finali di questi locali. I produttori di queste macchine adottano varie tecniche per eliminare l'ozono, ad esempio nei macchinari che ne usano in grande quantità c'è un'ultima parte del processo che ritrasforma l'ozono in ossigeno. In ogni caso è vero che stiamo parlando di un gas che se ne va velocemente, giusto? Ma diciamo comunque l'ozono, quindi ripetiamo questa molecola composta da 3 atomi di ossigeno, già naturalmente si degrada, si ritrasforma in ossigeno molecolare, l'ossigeno appunto comune che abbiamo nell'aria circa il 20%. Quindi diciamo non è tanto abbinato alla tipologia di macchinario che abbiamo, quanto proprio alla natura chimico-fisica stessa, proprio l'intrinseca natura di questa molecola, che è attiva, ma proprio perché è talmente attiva, o meglio, reattiva, tende a degradarsi in ossigeno. Senta, ci sono dei sistemi invece che non si basano sull'ozono per igienizzare, anche in questi giorni ne stiamo vedendo molti, ci arrivano anche a noi delle proposte, ma invece si basano sulla luce. Ecco, possiamo parlare, possiamo anche fare chiarezza su questi prodotti che si basano su raggi ultravioletti e quindi illuminano ambienti igienizzandoli. Si basano sulla radiazione ultravioletta. Penso che molti di noi comunque già da tempo, se non addirittura da decenni, le vedano. Per esempio, presso alcuni barbieri o presso alcuni estetisti, molti hanno delle piccole camere di sterilizzazione degli strumenti, tipicamente delle forbici per parrucchieri o comunque di altri oggetti, con una luce ultravioletta. Sì, l'ultravioletto è una forma di luce molto energetica che va appunto nello spettro visivo oltre il viola, da qui il nome, e quando la lunghezza d'onda è intorno ai 250-254, spesso è proprio quella classica, nanometri, quindi milionesimi di millimetro, a quel punto è molto efficace per degradare il materiale organico. Ecco, teniamo presente che anche in questo caso è altrettanto efficace contro microbi, comunque virus, batteri, ma può anche originare, per esempio, sull'epidermide, sulla nostra pelle, sulla nostra cute, può dare origine a quei melanomi e quella serie di problemi, di malattie dovute a un'esposizione eccessiva all'ultravioletto della nostra pelle. Certo, se uno lo utilizza in ambienti che sono vuoti, magari fabbriche, la notte dove non ci sono uomini, non ci sono uomini, non ci sono problemi. Assolutamente, infatti è qualcosa che comunque viene già impiegato soprattutto negli ambiti sanitari, vi sono delle lampade anche per grandi ambienti, addirittura con sensori di movimento in modo tale che tipicamente nelle ore notturne, negli ambienti di lavoro dove non c'è nessuno, ci sia questa radiazione ultravioletta, questa luce ultravioletta che va a, appunto a rimuovere, ad abbattere la carica microbica sulle superfici. Appena poi vi fosse qualcuno che dovesse entrare nel locale, automaticamente si spegne, proprio per evitare questa tipologia di rischi. Ecco, se dovessimo dire proprietà ma anche controindicazioni, teniamo presente che questa è una luce a tutti gli effetti, una radiazione elettromagnetica, ma assolutamente paragonabile alla nostra luce. Dobbiamo stare molto attenti a che non ci siano zone d'ombra, perché così come noi non ci abbronziamo in quei luoghi della nostra pelle dove che è coperta perché abbiamo gli occhiali da sole, perché abbiamo il costume, abbiamo qualche cos'altro che ci fa ombra, ecco, altrettanto valido per le superfici. Per cui spesso, per esempio, già porre un oggetto tridimensionale a igienizzare, la zona d'ombra non sarà coperta, non sarà raggiunta da questa radiazione. Quindi sembra una banalità, ma spesso ci possono essere casi in cui di un oggetto sferico un lato è igienizzato e l'altro è assolutamente intonso, è assolutamente nelle stesse condizioni, così come l'abbiamo messo all'inizio. Beh, anche nel suo caso approfittiamo della sua presenza, visto che è qui con noi, per alcuni consigli di igienizzazione in ambito domestico. Ovviamente i prodotti di cui abbiamo parlato poco fa sono prevalentemente pensati per le aziende, per o comunque utilizzati da professionisti. In ambito domestico, per rimanere a cose molto più semplici, voi che cosa consigliate? Anche lei, dico personalmente, visto che si occupa di chimica, che cosa consigliate? Nell'ambito domestico, anche a livello proprio di istituto, abbiamo consigliato di poter utilizzare, seguendo poi le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi quelle anche del nostro Ministero, dei prodotti a base di ipoclorito di sodio, che è il nome chimico, diciamo, nobile poi anche dei derivati della nostra candeggina da bucato, o anche l'alcol etilico, l'etanolo, almeno al 70% di concentrazione. Quindi già prodotti che noi abbiamo a disposizione, almeno nel commercio. Dobbiamo poi ovviamente stare attenti alla tipologia di superfici su cui andiamo ad applicarle, perché derivati della candeggina possono per esempio attaccare, possono interagire negativamente con, che ne so, superfici metalliche. Non andremo a mettere comunque la candeggina su un manufatto in ferro che può ossidarsi e arrugginirsi, oppure possiamo appunto utilizzare queste soluzioni a base di acqua e alcol. Quindi con candeggina diluita 1 a 50, quindi 50 volte, per avere una concentrazione finale in ipoclorito di circa 0,1%, oppure con alcol etilico diluito 4 a 5, 4 volume e una parte di acqua, possiamo arrivare alla concentrazione di 70%, che può essere adeguata per irrorare, nebulizzare e così igienizzare le nostre superfici anche domestiche. Guidotti, grazie per essere stato con noi, per la chiarezza, per averci chiarito alcune cose importanti. A presto, buon lavoro. Grazie a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Ci risentiamo la prossima settimana. Vi ricordo, come vi avevo annunciato la scorsa puntata, che abbiamo iniziato una, chiamiamolo, test, esperimento, nuova esperienza, una nuova serie di podcast che abbiamo intitolato 2024 più 10, interviste sul futuro. Partendo da una considerazione, 2024 cerchiamo di raccontare quello che succede oggi, cioè cerchiamo di interpretare, farci spiegare dagli esperti che raccogliamo ogni settimana, che raduniamo, convochiamo ogni settimana, che cosa sta succedendo in questi mesi, in questi anni di tecnologia, con un orizzonte di medio periodo, di breve medio periodo. Non parliamo mai di, o comunque ogni tanto ma raramente, di prospettive a più di 10-15 anni. Invece 2024 più 10, quindi 2034, cerchiamo di farci raccontare che cosa potrebbe succedere nei prossimi 14 anni. Abbiamo già pubblicato la prima puntata solo sul nostro sito internet radio24.it, raggiungibile anche da mobile. Andatela ad ascoltare, la prima puntata è con David Orban, che molti dei nostri ascoltatori a 2024 conoscono. Continueremo nelle prossime settimane con altre puntate, potete scrivermi sempre a 2024@radio24.it con considerazioni, critiche, tirate d'orecchie, suggerimenti, anche magari suggerimenti se vi è piaciuto un personaggio, lo avete sentito parlare, beh, potremmo anche intervistarlo se non è già stato ospite di 2024, magari lo conosciamo già e facciamo presto a raggiungerlo, in altro caso invece ci mettiamo alla ricerca. Grazie a tutti per l'attenzione, io sono Enrico Pagliarini, oltre al nostro indirizzo di posta elettronica potete raggiungermi a 2024, no, questo è l'indirizzo di posta elettronica, potete raggiungermi a, attraverso Facebook, Twitter o LinkedIn. Ringrazio anche Laura Faggin per la collaborazione in questa puntata, appuntamento alla prossima settimana.